Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio da Annalisa e Roberto Guidi, questa sera in regia. Buonasera Roberto. Buonasera Annalisa. E Alessandra dovrebbe essere in collegamento come sempre. Buonasera Alessandra. Buonasera Annalisa e buonasera cari amici ascoltatori. Dunque Alessandra, anche questa sera un giro di boa al passo con l'attualità. Commenteremo infatti una notizia che è apparsa nei media un paio di settimane fa, mi pare, giusto? Sì, lo scorso 4 ottobre Mark Zuckerberg ha annunciato che Facebook ha raggiunto il traguardo di 1 miliardo di utenti attivi mensilmente. 600 milioni si sono connessi almeno una volta in un mese da dispositivo mobile. Questo dato ci fa capire, ci fa dedurre che gli utenti iscritti sono sicuramente più di 1 miliardo. Per numero di utenti l'Italia si posiziona all'11° posto con quasi 22 milioni e mezzo di iscritti. Il dato interessante che emerge dall'osservatorio social media in Italia, che raccoglie i dati dal 2008, è che nel tempo la composizione della popolazione iscritta è molto cambiata. Infatti per la prima volta gli utenti italiani con età compresa tra i 36 e i 45 anni hanno superato la fascia dai 19 ai 24 anni. In crescita anche gli ultra quarantenni. È segno che l'ambiente sociale non è più dominio dei primi colonizzatori ed ormai rappresenta bene l'intera popolazione degli utenti della rete. Ne discutiamo questa sera con due ospiti. Annalisa, ce li vuoi presentare? Roberto Guidi questa sera è anche un nostro ospite. Roberto è marketing manager Ferrero qui in Belgio. Buonasera di nuovo Roberto. Buonasera Annalisa. E benvenuto come ospite questa sera. Doppia veste questa sera. Il secondo nostro ospite questa sera è Innocenzo Genna. Innocenzo è un avvocato esperto di regolamentazione europea delle telecomunicazioni di internet che svolge la propria attività qui a Bruxelles. In precedenza è stato presidente di ECTA, l'Associazione Europea dei Nuovi Operatori di Telecomunicazioni, mentre attualmente ricopre la carica di direttore esecutivo di Euroispa, l'Associazione Europea degli Internet Service Providers, e come i nostri radioascoltatori forse ricorderanno, Inno è già stato nostro ospite. Quindi bentornato a Giro di Boa. Buonasera a tutti. Dunque, io ho una prima domanda per voi. Gli iscritti in Italia sono 22 milioni. Roberto, come facevano, come si faceva prima di Facebook? Come facevano le persone per comunicare? Un commento dalla rete che vale la pena di riportare. Io nemmeno ho un profilo in Facebook e manco mi interessa sventolare i fatti miei ai 420, ma staccatevi da internet e andate a passeggiare. Questo è infatti quello che viene spesso rinfacciato agli utenti di Facebook. Voi siete entrambi utenti di Facebook, grandi utilizzatori mi sembra, quindi vorrei così aprire il dibattito e quindi da un punto di vista più personale all'inizio e chiedervi che cosa rispondete. Inno, vuoi cominciare tu? In genere queste critiche vengono da coloro che non hanno mai utilizzato lo strumento, quindi non sanno come funziona. Diciamo che ogni volta che c'è un cambiamento tecnologico importante, le abitudini delle persone si adattano. Pensiamo a come lavoravamo, come scrivevamo qualche cosa prima che ci fossero i computer, o come organizzavamo qualche cosa quando non c'erano i cellulari, oppure come veniva organizzato il lavoro quando non c'era il fax. Ogni volta andando a ritroso ci sembra impossibile che potessimo fare qualche cosa senza gli strumenti che abbiamo ora. Facebook è solamente l'ultima tappa di questo processo per il momento, quindi non l'ultimissima, ce ne saranno altre. Roberto? È anche vero però che dal punto di vista puramente sociale ci sono stati dei cambiamenti, nel senso che comunque Facebook e i social media, come è stato già rilevato da parecchi sociologi, hanno alterato il nostro modo di rapportarci con il mondo esterno, perché È vero che da un lato risponde ad un'esigenza che è quella comunque di mostrarsi e di mostrarsi in un ambiente che è di per sé però protetto, perché effettivamente su Facebook la vita digitale è una vita digitale abbastanza schermata. Ed è paradossale, rifacendomi alla tua domanda precedente, è vero che l'impatto di Facebook sulle nostre relazioni con gli altri è duplice, perché da un lato ci si sente quasi più vicini alle persone a cui siamo lontani, e siamo probabilmente più lontani alle persone che ci sono vicine. Quindi io capisco l'osservazione della persona che hai citato prima, perché effettivamente molto spesso si passa più tempo su Facebook e si dà più valore anche alle relazioni su Facebook virtuali e spesso distanti rispetto ad andare fuori a giocare con gli amici, piuttosto che a prendersi un gelato e fare una passeggiata. Volevo sapere, secondo una ricerca dell'Università di Chicago, il desiderio di controllare i social media è tra i più forti tentazioni della società moderna, un'impellenza che addirittura supera quello per le sigarette, per l'alcol, il sesso ed il sonno. Roberto e poi dopo Inno, vi ritrovate voi in questa conclusione? A quanto pare il desiderio per i social media può essere più difficile da contrastare a causa anche della facilità con cui si può accedere ai mezzi che oggi permettono questa presenza in linea. Per esempio lo stesso studio riportava che il 20% degli australiani controlla Facebook quando è al bagno. Roberto? Ma devo dire che questo è un punto assolutamente pertinente, nel senso, io credo che ci siano comunque delle generazioni a confronto. Il mio uso di Facebook è un uso, se vuoi, abbastanza legato alle situazioni di vita che ho vissuto. Avendo vissuto in diversi paesi, Facebook è sicuramente lo strumento, come diceva Inno in precedenza, più facile e più globalizzato, che mi permette di tenere i contatti con persone che senza Facebook probabilmente non avrei saputo raggiungere. È vero però che dal punto di vista, come dicevo prima, sociologico e anche di psicologia, c'è un qualcosa di importante che sta succedendo su Facebook, perché c'è questo desiderio di dimostrarsi, di mostrare di diventare qualcuno, no? E in particolare ci sono alcune categorie di persone che usano Facebook come anche affermazione di se stessi, soprattutto quelli che sono emarginati, che soffrono il timore del rifiuto, che hanno la paura anche dell'anonimato e dell'esclusione. Quindi in questo senso è vero che ci sono probabilmente delle esagerazioni anche su Facebook, o delle proiezioni della realtà di tutti i giorni, soprattutto per determinati profili di utenti. Inno, il tuo punto di vista su questa domanda? Beh, visto che Facebook ha dato sfogo a desideri di socializzazione, anche di esibizionismo, è chiaro che queste manifestazioni possono avere un luogo anche attraverso dei fenomeni anche compulsivi, quindi c'è gente che sta sempre su Facebook o che lo controlla continuamente. Però va detto che questi comportamenti già si vedevano con l'uso delle mail o del cellulare, quindi semplicemente Facebook forse consente maggiormente questi atteggiamenti, però probabilmente il problema è a monte, insomma, non nello strumento in sé, ma nella psicologia delle persone. Quindi può aver acutizzato atteggiamenti o tendenze già esistenti, fondamentalmente. Sì, effettivamente le rende più facili. Vorrei, Alessandra, passare ad argomenti un po' più specifici e tecnici con i nostri due ospiti e approfittare della loro esperienza nei rispettivi settori. Inno, vorrei partire da te. In una città come Bruxelles, al cui centro ci sono le istituzioni europee e tutto quello che vi ruota attorno, quindi penso a tutte le aziende che sono rappresentate qui, le società di consulenza, le associazioni, i lobbisti, ovviamente non poteva mancare anche un ufficio di Facebook, la cui attività principale è mantenere i rapporti con le istituzioni europee e sollecitare, organizzare dibattiti su questioni legate alla data privacy e alla sicurezza dei dati. L'ufficio Facebook qui a Bruxelles è diretto da Erika Mann, e in precedenza membro del Parlamento europeo. Ino, ti vorrei chiedere se puoi spiegare ai nostri, se puoi raccontare ai nostri radioascoltatori qualcosa di più sulla presenza di Facebook, quindi qui a Bruxelles, di cosa si occupa questo ufficio, quali tematiche più nel dettaglio stanno seguendo. Facebook come altri operatori ha aperto un ufficio a Bruxelles perché le sue attività sono altamente regolamentate, come qualsiasi altra attività economica. E poiché nel contesto europeo le normative nascono a Bruxelles e dopo vengono implementate a livello nazionale, è ovvio che strategicamente è importante avere una presenza a Bruxelles per poter influire su queste normative nel momento in cui nascono. E attualmente una delle normative più importanti che può avere il maggior impatto sull'attività di Facebook è quella sulla privacy, perché la normativa in questione è abbastanza vecchia, le prime direttive sono degli anni 90, quando la privacy era soprattutto relativa a dati offline, cartacei, poi vi sono state delle nuove revisioni, ma proprio in tempi recenti la Commissione ha emanato una proposta, che è stata emanata il 25 gennaio, che vuole rivedere tutta la materia della privacy, soprattutto nel settore delle comunicazioni elettroniche, dove si muove Facebook, perché noi sappiamo che ormai i dati che noi trattiamo e che vogliamo difendere sono tutti digitali, sono dati che quindi non sono più in cartaceo, sono dentro dei server, sono dati che sono facilmente trasferibili e sono dati che possono rimanere per sempre nella rete. E questa proposta di legge che si estrinsecherà con un regolamento, quindi dovrà disciplinare una serie di aspetti molto importanti della privacy che avranno un forte impatto su Facebook. Faccio un esempio: il diritto all'oblio, il right to be forgotten in inglese, è un problema importante, cioè in che modo un operatore internet come Facebook, che tratta dati personali delle persone, può essere obbligato, a richiesta dell'interessato, a cancellare definitivamente da internet determinati dati, e soprattutto può farlo veramente? Perché noi sappiamo che quando i dati sono in internet, fisicamente sono in un server, ma potrebbero poi essere copiati e finire altrove, quindi finire fuori dal controllo di chi li ha immagazzinati la prima volta. Fino al momento qual è la situazione attuale? Diciamo, se un utente Facebook vuole togliersi dal sistema, vuole cancellare i propri dati, quindi al momento che cosa succede? Attualmente ha il diritto di farlo, Facebook glielo riconosce in via contrattuale, però dal punto di vista normativo la situazione non è chiara, cioè se Facebook volesse rifiutare o volesse tenersi dei dati copiati per qualsiasi altro motivo, non si sa bene se può farlo o meno, e se lo fa in violazione di una norma non si sa bene se si può fare azione contro Facebook, perché Facebook si trova fuori Europa, quindi Facebook vorrebbe dire sì, ho contravvenuto a una regola, però non sono un operatore europeo, anche se tratto dati europei. E quindi, questo regolamento disciplinerebbe tra le varie cose anche questo aspetto? Sì, per fare un esempio anche forse un pochino tra il macabro e il divertente, l'altro giorno ho letto un tweet che diceva: nel 2050 su Facebook ci saranno 750 milioni di morti. Allora, questo è un altro aspetto, dice, cosa succede quando una persona viene meno? Chi ha i diritti di entrare e di utilizzare i dati di questo profilo? Attualmente c'è un vuoto legislativo enorme. Al di là ovviamente degli aspetti personali relativi a un evento del genere, però ci possono essere eventi patrimoniali e di immagine estremamente forti a seconda della persona a cui è capitato di venir meno, ma e per la quale ancora esistono i dati presenti in un social network. Annalisa, io sarei interessata a fare una domanda a Roberto. Tu l'hai presentato prima come... Lavora nel marketing, Roberto, e come sappiamo Facebook è anche business. Secondo un'indagine di Deloitte pubblicata all'inizio di quest'anno, Facebook è un importante volano economico in tutta Europa. Produce 2,5 miliardi di euro in Italia e Facebook fa girare molto, molto denaro. Senz'altro Roberto ci può spiegare un po' di più di quello che oggi, come viene definito oggi, il social media marketing. Roberto, ci puoi illustrare questo concetto? Ma sì, molto volentieri. Diciamo che in generale c'è un cambio storico nel modo in cui la gestione dei brand viene fatto a livello globale. Perché prima, alla fin fine, si gestiva un brand, una marca, attraverso quello che nel gergo viene chiamato il paid advertising. Quindi che cosa succedeva? Che un'azienda attraverso la stampa, la televisione, la radio o il cinema pagava una certa somma di denaro per investire e per trasmettere questo messaggio a urbi et orbi, direi. Oggi invece c'è un discorso diverso. Da un lato non c'è soltanto la parte paid, quindi la parte più legata al messaggio che viene pagato e trasmesso. Le aziende hanno normalmente anche una parte owned, quindi una parte che loro hanno propria, quindi si parla di, per esempio, siti web o pagine Facebook di fan di un brand, di una marca. Ma quello che soprattutto è importante nell'ottica di Facebook è la terza parte. La terza parte è quella che viene chiamata earned media. L'earned media è semplicemente il fatto di parlare di una marca, e questo è un discorso, il fatto di parlare di un brand, che viene fatto attraverso Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, i blog e i forum. E questo è un qualcosa di fondamentale nel modo di gestire le marche, perché alla fin fine non è soltanto un nuovo canale di comunicazione, è veramente un nuovo paradigma che sta cambiando nell'approccio che un responsabile marketing, o comunque un'azienda che vuole avere un certo tipo di consumatore e rivolgersi a questo consumatore, deve tenere assolutamente in considerazione. Facilita o meno il consumatore, oppure lo lo prende in giro? Ma guarda, in realtà il discorso è esattamente l'opposto, ed è un qualcosa che probabilmente come utenti, diciamo, basici non notiamo. Però per riassumere un po' quelli che possono essere i fondamentali dell'importanza del social media marketing, posso dire che innanzitutto quello che i consumatori dicono sul tuo brand è importante, perché alla fin fine quello che viene pubblicato su Facebook, oppure il fatto di fare un like ad una pagina, dimostra che c'è da parte del consumatore un certo tipo di interesse. Quello che viene pubblicato su Twitter o anche su YouTube è un qualcosa che ha una cassa di risonanza mondiale. Ricordo c'era stato un caso di una catena di pizzerie da sport negli Stati Uniti, in cui degli impiegati si erano filmati mentre stavano facendo la pizza, ma stavano facendo contemporaneamente delle cose non proprio, diciamo, ortodosse, mentre stavano preparando la pizza. Questo filmato è finito in rete ed ha scatenato logicamente una grandissima reazione negativa che è andata a nuocere nella reputazione dell'azienda. Quindi da un lato è importantissimo quello che i consumatori dicono, poi bisogna dire che quello che è la raccomandazione fatta online da un consumatore è più affidabile, perché molte delle raccomandazioni fatte all'interno dei social media si traducono in acquisti. E bisogna anche sottolineare un altro elemento, Alessandra, che è quello del permesso, nel senso che all'interno dei social media è chiaro che per essere informati su un brand tu devi premere il like, oppure devi fare un follow su Twitter. Quindi c'è un marketing che è basato sul permesso di accedere a determinati contenuti, e quindi nel momento in cui uno non vuole ricevere la pubblicità di una macchina, non la riceve, perché se lui decide spontaneamente di fare un like su una pubblicità di una macchina o su un sito di una macchina, allora riceve poi gli aggiornamenti. Intervenire su questo punto? Quello del marketing, cioè, non è il mio settore, però mi rendo conto che è uno degli aspetti più innovativi di Facebook, e forse quello più innovativo è che Facebook ha in qualche modo trovato un modo per incanalare i desideri delle persone, perché le persone in Facebook leggono, fanno o desiderano di comprare cose perché vedono che i loro amici fanno lo stesso. Questa è la novità fondamentale rispetto alla pubblicità in generale. Se io passo di fronte a un cartellone, di un qualsiasi prodotto, la cosa mi può colpire più o meno, è come anche una testata di un giornale. Ma dentro Facebook io vengo a sapere che i miei amici hanno letto qualche cosa, amano qualche cosa e potrebbero comprare qualche cosa. Questo ha un effetto estremamente importante dal punto di vista del marketing. Questo è veramente l'aspetto innovativo di Facebook. È un po' la gallina dalle uova d'oro. Sì, perché effettivamente si parla, come giustamente, per sottolineare che quello che dice Inno è la parte fondamentale. Se uno pensa alla propria situazione, anche quando sente parlare di un prodotto da un proprio amico, anche in un contesto offline, sicuramente è più interessato ed è più propenso ad acquistarlo rispetto ad una semplice pubblicità, che è molto spesso considerata come un qualcosa di astratto e creato ad arte da parte delle agenzie creative. Invece il discorso del word of mouth, quindi del diffondere la parola tra un gruppo di amici, ha veramente completamente modificato il funnel di discorso tra un marketing tradizionale che cercava, prima di trovare dei utenti e dei consumatori, di convertirli all'acquisto e di tenerli. Ora invece quelli che fanno social media sanno che la cosa più importante è che il messaggio venga esattamente ribaltato e che si parli di qualcuno attraverso delle persone che già conoscono questo prodotto. E inoltre però l'altro aspetto, che però è più delicato, a volte forse anche un po' inquietante, che però tutte le nostre attività in Facebook, come in altri social media, sono in qualche modo tracciate da parte della piattaforma che ci ospita. E quindi qualsiasi like noi facciamo, commento, pagina che andiamo a vedere all'interno della piattaforma viene registrata, e questa contribuisce a formare una sorta di profilo commerciale. Quindi è l'attività di profiling, come la chiamano gli operatori, per cui loro si fanno un'idea di chi siamo, cosa vogliamo, cosa desideriamo. E tutti avranno notato, coloro che stanno un po' di tempo su Facebook, che molto spesso le pubblicità che appaiono sono in qualche modo focalizzate su attività che, guarda caso, ci interessano, perché in tempi recenti siamo andati a fare qualche cosa di analogo, a guardare qualche cosa di analogo. Ora, tutto questo va bene se c'è un consenso chiaro, e esplicito e cosciente da parte delle persone, perché io posso essere perfettamente consapevole di questo e potrei anche essere contento, però è bene che la gente sia messa in condizione di decidere tutto questo. Ed è bene che ci siano regole importanti, chiare, affinché una persona possa a un certo punto eventualmente uscire fuori da questo meccanismo e fare eventualmente il modo che tutte queste informazioni non siano disponibili. Perché se io ad esempio in questo momento mi interessa di una certa disciplina, non voglio che in futuro questo si sappia, perché magari questa cosa passa di moda e non è più compatibile con una successiva mia attività. Inno, questo mi porta all'altra domanda che avrei voluto farti, quindi tornando al discorso che avevamo iniziato in precedenza su questa proposta di regolamento della Commissione, quindi tu ritieni che ci sia bisogno di questo, e qui mi volevo riallacciare ad un commento che avevo letto in un articolo, un commento da parte della Chief Operating Officer di Facebook, la quale ad inizio anno, partecipando ad una conferenza, ha sostanzialmente lasciato intendere che il suo messaggio era: la crescita economica dovrebbe essere la preoccupazione principale e non, non il data privacy e la regolamentazione, la legge europea dovrebbe focalizzarsi sulla crescita economica e sullo sviluppo e non preoccuparsi più di tanto di questi aspetti. Tu che cosa ne pensi? Ora, in effetti il rappresentante di Facebook giustamente dice: noi siamo in grado di creare un nuovo sviluppo economico, quindi ci dovete lasciare un po' liberi di farlo. E non è solo il ragionamento di Facebook, è il ragionamento di Google, è il ragionamento di molti quotidiani online, di pubblicitari online. Dicono: noi creiamo una nuova economia su internet, per farlo dobbiamo avere un accesso un po' più libero sui dati delle persone. Bisogna bilanciare però questa aspirazione con i diritti delle persone, e il punto di incontro di questo bilanciamento normalmente è il consenso da parte dei soggetti che devono autorizzare quindi il trattamento dei loro dati da parte della piattaforma presso la quale, nella quale si muovono. Il problema è come viene fatto questo consenso, perché la proposta della direttiva attualmente prevede un consenso esplicito, per cui ogni volta con varie modalità io dovrò dire autorizzo a fare tutto questo. Molti operatori internet, tra cui Facebook, invece vorrebbero un consenso implicito nel momento in cui io mi interesso di determinati soggetti o comincio a utilizzare certi servizi, implicitamente già sto dando l'autorizzazione al provider di utilizzare tutti i miei dati comportamentali in futuro. Ecco, qui bisognerà trovare un po' una quadra. Alessandra, tu hai un'altra domanda? Sì, volevo chiedere un'ultima cosa ad entrambi. A Dino volevo chiedere, lui prima parlava del profiling, però sappiamo benissimo che il profiling non avviene solo e unicamente sui social media come per esempio Facebook, ma anche via provider di email e anche attraverso alcuni siti, per cui volevo chiedergli: secondo lui questa è una tendenza che va ad aumentare oppure no, e se c'è qualcosa di previsto in questa direttiva? Sì, la direttiva prevede delle norme ad hoc e soprattutto prevede proprio un meccanismo di consenso esplicito da parte degli utenti, e questo elemento del consenso espresso che ha creato alcune critiche da molti operatori, anche Facebook, che viene considerato un sistema un po' troppo macchinoso. Va detto che anche un altro problema è se fino a che punto questa attività di raccolta dei dati siano profiling o meno, perché a volte gli operatori si possono anche limitare a raccogliere dati in maniera anonima, allora non potrebbe anche non interessare cosa fa una determinata persona, ma a loro può bastare sapere che un certo numero di persone hanno una serie di preferenze, quindi questi dati possono essere trattati in maniera collettiva e anonima. In questo caso ad esempio il consenso non sarebbe più necessario. Ci vorrà ancora un anno in Parlamento per arrivare, diciamo, alla soluzione di questi problemi. Siamo purtroppo giunti in chiusura per quanto riguarda il tempo che potevamo dedicare a questo tema. Vorrei ringraziare i nostri ospiti per il loro interessante contributo alla trasmissione di questa sera, per aver condiviso con noi la loro esperienza e la loro opinione su questo tema. Quindi un grazie a Dino e speriamo di riaverti nuovamente ospite qui in studio. Grazie e buon lavoro. E un grazie anche a Roberto, questa sera in doppia veste di regista e ospite. Facciamo ora una pausa musicale. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Siamo quasi in chiusura di trasmissione, però prima di chiudere volevamo approfittare per fare il punto della situazione per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda il campionato, la nazionale, una striscia sportiva come già alcune volte abbiamo fatto con i nostri ospiti e approfittando del nostro regista Roberto Guidi e di Maurizio Molinari, giornalista e curatore della rubrica Onde Corte. Roberto. Ma guarda Annalisa, ci sono state nelle ultime settimane delle sicuramente partite molto interessanti. Innanzitutto la nazionale di Prandelli che ha dato una bella prova di forza nelle prime partite di qualificazione verso il Mondiale di Brasile 2014. Ha vinto 3 partite su 4, una ne ha pareggiata in Bulgaria, la prima partita in trasferta, e ha mostrato degli sprazzi di gran gioco con contemporaneamente una grandissima rotazione dei elementi nuovi anche a disposizione del CT. Maurizio, cosa dici tu cosa ne pensi tu della prestazione della nazionale fino a questo momento? Da sottolineare sicuramente c'è che l'Italia ha sempre storicamente avuto difficoltà contro avversari non di blasone, e in questo inizio di qualificazioni per i mondiali 2014 non ha affrontato grandissime squadre, perché ha affrontato la Bulgaria, Malta, l'Armenia e la Danimarca, però è riuscita a vincere in alcuni tratti, per alcuni tratti anche a convincere, nonostante appunto la nazionale italiana spesso in questi scontri, diciamo, non di cartello ma anche un po' di motivazione. Per quanto riguarda invece il campionato, che cosa sta succedendo? Quali sono le ultime? Ma Annalisa, più che parlare di quello che sta succedendo, potremmo parlare di quello che succederà, perché l'appuntamento clou di questo inizio di campionato è sicuramente la partita che si giocherà in anticipo alle 18 di sabato tra Juventus e Napoli. Due squadre che per ora sono appaiate in testa alla classifica del campionato italiano e che hanno mostrato fino ad ora sicuramente il miglior gioco ed anche le migliori individualità. Una rivalità storica, una rivalità tra due città, una rivalità tra due tifoserie che soprattutto negli anni 80, da un lato la Juventus di Platini, dall'altra il Napoli di Maradona, hanno spesso dato luogo a delle partite entusiasmanti sia al San Paolo che allo stadio di Torino. Stadio di Torino che però sappiamo bene ora è lo Juventus Stadium, l'unico primo stadio in Italia di proprietà di un club, e questo potrebbe portare il famoso 12° uomo in campo per la Juventus in questa sfida molto molto interessante. Mauri? Diciamo che un altro motivo in più per scaldare la vigilia della partita fra Juventus e Napoli è quello che è successo ad agosto nella Supercoppa a Pechino, Supercoppa vinta dalla Juve con molte proteste da parte dei giocatori del Napoli, dell'allenatore Mazzarri, che poi fu squalificato, della società che addirittura non partecipò alla premiazione per la doppia espulsione. Il Napoli fu costretto a finire quella partita in 9. Ecco, è la prima volta che le due squadre si rincontrano dopo la Supercoppa. Il Napoli è l'unica squadra che ha battuto la Juventus di Conte, di Alessio, di Carrera, ed è una sfida sicuramente non decisiva, perché qualsiasi sarà il risultato comunque non si deciderà sabato lo scudetto allo Juventus Stadium, però è una sfida che può dirci di più sul valore delle due squadre. Vediamo che sia la Juve che il Napoli hanno fatto molto bene fino in campionato, hanno faticato in Europa. Il Napoli ha preso una batosta al PSV Eindhoven, la Juve ha pareggiato in casa l'ultima in Champions League con lo Shakhtar Donetsk, e quindi diciamo ci darà sicuramente un'idea un po' più precisa dei valori delle due squadre. Dietro la Lazio che affronta il Milan e l'Inter che affronterà il Catania in casa, soprattutto l'Inter, potrebbero approfittarne per avvicinarsi almeno a una delle due squadre, se non a tutte e due, dipende quale sarà il risultato. Magari Roberto, non so, vuoi parlare un attimo del Milan che ha avuto, diciamo, un inizio di campionato un po', diciamo, molto al di sotto del suo blasone? Ma sì, siamo in chiusura, ma è vero che comunque ci sono stati dei ribaltamenti di vecchie gerarchie, o comunque neanche troppo vecchie, perché comunque negli ultimi anni Milan e Inter sono sempre state quelle squadre che hanno un po' gestito il campionato italiano a piacimento, a parte l'ultimo anno stradominato dalla Juventus. È chiaro che sono partite entrambe un po' con il freno a mano tirato, ma sicuramente sono due grandi squadre su cui non si può mai decidere che siano finite, ma potrebbero sempre ritornare e rientrare, perché hanno dei grandissimi giocatori che possono effettivamente fare la differenza. Un grazie a Roberto e Maurizio per la loro prospettiva sportiva, come sempre, e non ci resta che dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori per la prossima puntata. A risentirci.